Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Ben ritrovati su Radio 24 e ben ritrovata Ivana Di Martino. Ciao, buona domenica a tutti. Ivana, allora anche questa domenica non siamo soli perché è qui con noi il campione del mondo di corsa in montagna di lunghe distanze, Francesco Puppi, benvenuto. Grazie. Allora, una definizione del tuo titolo mondiale è lunghissima, come possiamo tradurla? Ma... che gara è? Adesso tra trail, corsa in montagna, skyrunning così è difficile un po' districarsi, però... corsa in montagna è una disciplina dell'atletica, è più legata forse al fondo, al mezzo fondo classico più che allo skyrunning magari. Ho corso questo campionato mondiale a Premana sul percorso del Giro di Monte, che è una gara molto famosa che si tiene da diversi anni. E in particolare il percorso era di 32 km con 2700 metri di dislivello. È interessante, insomma. E si percorre su un sentiero? Sì, sempre sentieri tracciati, sempre possibile correre, non ci sono tratti alpinistici o... in cui bisogna, insomma, muovere, arrampicare, anche, ecco. Certo. Tu hai vinto il campionato del mondo proprio quest'anno, ricordiamo che però tu sei arrivato secondo al traguardo, però poi ti è stato insomma, riconosciuto il primo posto in classifica dopo l'eliminazione per doping del primo arrivato. Sì, questa cosa mi ha un po' spiazzato, nel senso che è stata difficile per me da interiorizzare, da digerire, perché comunque io ero anche molto legato all'Eritreo che ha vinto la gara. E purtroppo credo che abbia commesso una leggerezza, perché ha preso un farmaco per la bronchite. E non tanto probabilmente per aumentare le prestazioni, quanto per stare meglio e poter correre appunto la gara. Chiaramente, essendo un professionista, avrebbe dovuto accertarsi o comunque stare più attento. E per questo ho pagato. Però diciamo rimane un po' la macchia sulla gara. Eh sì, vabbè, perché comunque tu hai festeggiato un secondo posto di cui eri già contento, diciamo, possiamo sì, dire così. Sì, no? Sì, io sono contentissimo, a me rimane un ricordo incredibile della gara che ho fatto, che probabilmente è stata la mia miglior gara, e sono contento così, al di là del primo, del secondo posto, che poi è relativo. Come ci si prepara per queste gare? Allora, questo era il mio principale obiettivo dell'anno, quindi ho iniziato a prepararlo già un po' in primavera, facendo diverse gare di corsa in montagna, però sempre su distanze più brevi. E in allenamento, più che privilegiare l'allenamento in montagna o comunque su percorsi in salita, discesa, anche per esigenze pratiche, perché abito in una zona collinare, ho utilizzato tanto i percorsi collinari, ma anche tanto la strada e la pista. E io mi alleno di solito tutti i giorni, non ho la possibilità di allenarmi due volte al giorno molto di frequente, però magari un paio di volte alla settimana riesco a farlo. E nell'ultimo periodo prima della gara ho avuto anche la fortuna di fare un periodo in altura a Sestriere, nelle due settimane prima della gara, in cui ho affinato un po' la preparazione e ho fatto gli ultimi allenamenti importanti. Tu sei uno che macina, insomma, come abbiamo capito, tantissimi chilometri in montagna, però adesso ti aspetta l'asfalto di quello di New York. Tu sei l'unico italiano, diciamo, uomo di elite che andrà alla maratona di New York. Sì, complimenti. Sì. Sono contentissimo, e anche questa è una decisione che ho preso in primavera, perché io desideravo debuttare in maratona già da tanto tempo, ma per un motivo o per l'altro, per via di infortuni e tante cose, non sono mai riuscito a farlo. Quest'anno finalmente sembra che sia arrivato il momento buono, e per me è un'emozione grandissima, perché è un desiderio che avevo fin da bambino, quindi io ho un po' iniziato anche a fare atletica pensando alla maratona comunque. È un sogno che si è realizzato. Certo. E la preparazione è andata bene, poi chiaramente c'è un po' di stanchezza per tutta la stagione che ho alle spalle. Però anche mentalmente passare dalla montagna alla strada un po' mi ha aiutato per differenziare i percorsi e il tipo di allenamento. Infatti hai dovuto cambiare, immagino, il tipo di allenamento rispetto al solito. Sì, neanche tantissimo, perché mi piace ricordare che prima di Premana ho svolto più lavori in pista che in montagna alla fine. E quindi da quel punto di vista non è stato neanche così traumatico il passaggio. Però a me piace molto anche il rigore, la precisione che serve per correre in piano, su strada. Perché è proprio diverso poi anche l'approccio rispetto alla corsa in montagna. Magari qui a New York ti metterai un certo passo da mantenere all'inizio alla fine, più o meno, diciamo. Invece in montagna la variazione anche di dipendenza ti porta a correre in modo diverso. Certo, sì, la maratona alla fine è più un problema di resistenza alla velocità. In montagna le caratteristiche del terreno e comunque della gara implicano che tu devi sempre adattarti alle condizioni esterne, non puoi mantenere un ritmo costante, insomma. E cosa ti aspetti da New York? Ma innanzitutto di divertirmi moltissimo, poi ho la fortuna di essere tra gli elite, quindi sarà una gara molto particolare perché per me è un mondo anche tutto nuovo e essere di fianco a certi campioni che conosco, che ammiro, sarà tanto emozionante. Come obiettivo cronometrico è difficile dirlo, io l'ho preparata per correre più o meno sulle 2 ore e 20. Con quel risultato sarei contentissimo. Direi che se esce qualcosa in più va bene lo stesso. Va bene così. Ma tu alterni per caso bicicletta o nuoto al tuo allenamento? Che vedo che ultimamente Molti utilizzano, soprattutto la bicicletta, magari tolgono un allenamento di corsa, aggiungono la bici per magari evitare infortuni o comunque alternare un po' anche a livello muscolare, insomma, lo sforzo. Sì, utilizzo soprattutto la bici. Ho imparato un po' a differenziare gli allenamenti per necessità, perché quando mi sono infortunato, mi è capitato diverse volte, ho dovuto, per mantenere un po' la forma, passare alla bici e al nuoto. Però diciamo anche in periodo in cui sto bene, come adesso, comunque la bici la mantengo almeno un giorno alla settimana di solito, come scarico dopo la gara principalmente. E quanti chilometri fai? Di solito non tanti, un paio d'ore, sui 60 magari. Ecco, ma che tipo di allenamento si fa in bici quando bisogna alternarlo, diciamo, alla corsa? È un allenamento intenso oppure una corsa in bicicletta blanda? Non è troppo impegnativo perché adesso lo sto usando principalmente come scarico, come recupero. Però capita anche di fare qualche allenamento un po' più impegnativo. Poi a me piace fare le salite, farle forte. Anche in bici sempre in salita. Sì. Sì, beh, è molto più divertente. È tutto in salita anche perché in questo periodo tu ti stai lavorando in fisica. Tutto insieme succede, no? Succede un po' tutto insieme, sì, infatti questo... non è facile da gestire, però dai, sembra che ormai si riesca a convergere verso una fine. Ok. e consegnerò la tesi prima di andare a New York, poi starò una decina di giorni a New York anche per un po' di vacanza. Poi torno e discuto la laurea. Bene. Concomitanza. E come hai gestito questo tuo periodo di studio, insomma, la tua carriera scolastica e universitaria e con la corsa, comunque una corsa ad alto livello, perché comunque è impegnativo. Ho cercato di lasciare spazio tanto anche alla corsa in questo periodo, pur avendo dovuto scrivere la tesi. Sinceramente non è stato il periodo più complicato, perché avendo fatto una tesi sperimentale in tutto l'anno scorso comunque sono dovuto stare in laboratorio per molto tempo e lì è stato più difficile allenarsi. Ora riesco a gestirmi comunque un po' gli orari. Vabbè, mi sembra sempre di essere in ritardo perché comunque manca una settimana, sono qui che devo fare le ultime cose, mi sembrano ancora tantissime. Lo spazio per la corsa alla fine lo trovo sempre, quindi sono contento. Ti serve anche un po' per ordinare le idee magari, no? Sì, probabilmente, sì. Ma ricordiamo che Poma sarai a New York e con te ci saranno anche altre due azzurre, diciamo, d'elite, che una è Emma Quaglia, che non è nuova alla distanza della maratona, e poi ci sarà anche l'esordiente sulla 42 km Sara Dossena, su cui pesano grandi aspettative a livello di tempi. Certo. Qual è il tuo sogno però nel cassetto? Cos'è che ti piacerebbe fare da grande, visto che sei così giovane? È più legato alla corsa o più legato agli studi che hai fatto? O entrambi magari? È molto difficile rispondere a questa domanda. Io, quando ho iniziato l'università, le prospettive anche riguardo alla corsa erano molto diverse. Poi, non che avessi meno passione, anzi, forse correndo più piano ci vuole ancora più passione per continuare, per impegnarsi. Poi però sono arrivati certi risultati, insomma, il tempo da dedicare alla corsa è aumentato, e sia per mia volontà che magari anche per aspettative esterne. Adesso non so come vedo il mio futuro, certamente la corsa ha una gran parte e la fisica ha uno spazio diverso rispetto a come l'avevo iniziata. Quindi però si vedrà, insomma. Sì, si vedrà. Non credo che la corsa possa diventare un lavoro, però sicuramente rimarrà sempre nella mia vita e sicuramente mi piacerebbe fare qualcosa legato alla corsa anche come lavoro. E dopo New York, a livello di corsa, su cosa ti concentrerai? Quali saranno le tue prossime gare? Allora, prima un po' di recupero, poi penso che passerò l'inverno come al solito a preparare qualche cross, perché fanno un po' la base della preparazione invernale, e poi in primavera mi dedicherò alla corsa su strada, dove mi piacerebbe migliorare un po' i tempi anche su distanze più brevi. Ah, ok, quindi insomma, vai, lasci un attimo la montagna per dedicarti alla strada. Sì, anche perché d'inverno, insomma, in montagna è difficile. E poi io comunque resto sempre molto legato all'atletica fatta in pista, su strada, al mezzo fondo classico, insomma, e mi piace tantissimo. Farei anche qualche mezza maratona, magari? Certo, sì, sì. Ho visto che al di là della strada tu hai fatto delle cose che sono totalmente opposte rispetto alla strada, quelle corse, le vertical di un chilometro, no? Non è quasi corsa quella? No, no, è sempre corsa. Io comunque, a me piacciono sempre i percorsi tutti corribili, dove si riesce a esprimere il gesto atletico della corsa. Non saprei come definirli, sono serve forza e un po' di tecnica. Mi diverto molto di più sui percorsi su e giù, anche se sono meno bravo in discesa. Però la salita, diciamo, viene facile. La discesa cosa ti blocca nella discesa? C'è un po' la paura di... No, non ho paura, solo che serve tanta tecnica e non ho ancora capito bene come funziona, forse. A me hanno detto, siccome anch'io per preparare l'ultima impresa ho fatto tante corse in montagna, ma più che altro tanti allenamenti, sì. E mi dicevano di andare completamente col peso in avanti, no? Un po' come quando sci... E io veramente mi sembrava di essere, non so, non riuscivo assolutamente. Per me è difficilissimo correre in discesa, infatti odio le discese. Sì, è molto difficile, soprattutto non affaticarsi muscolarmente, secondo me, perché poi chiaramente lo sforzo è meno intenso rispetto alla salita. Però si trattiene molto. Esatto, bisogna cercare di correre veloci senza spendere tanto e soprattutto avere le gambe pronte per affrontare poi una salita che potrebbe esserci dopo. Certo. Mi piace che un campione del mondo dica non ho ancora ben capito come gestire la discesa, perché a questo punto vorrei capire. Quando capirai come funziona non ce ne sarà più per nessuno. Infatti. Ma in questi 32 chilometri appunto, no, dove hai vinto, c'era tanta tratta in discesa? Sì, tanta salita quanto discesa. Ah, ok. Okay, equivalente, quindi veramente sì. Non sarai fortissimo poi. Invece volevo rubarti qualche informazione. Io ho corso domenica scorsa la Venice Marathon, ho avuto qualche problema di stomaco legato sicuramente all'alimentazione durante la corsa. Tu come ti alimenti durante le tue gare? Allora, tendenzialmente non mi alimento perché le gare sono sempre abbastanza corte da non richiedere un'integrazione da quel punto di vista. Quindi bevi e basta? Bevo e basta, sì, al limite bevo dei sali. Qualche volta mi è capitato dover prendere dei gel e anche per gli allenamenti della maratona comunque ho provato a prendere qualcosa. Credo che la soluzione migliore sia avere dei gel diluiti nell'acqua perché... Li rende più digeribili, diciamo. Li rende più digeribili e l'assunzione è più facile. Il problema è che non sono sempre disponibili perché magari uno si porta dietro i gel però non ha l'acqua. E penso che sia utile magari prenderli vicino ai ristori così almeno... Beh, in questo caso tu a New York ritroverai la tua borraccia con le tue cose. Fortunatamente sì, perché essendo tra gli elite ho la possibilità di prepararmi le borracce. Ma sarà la prima volta che avrai questa opportunità o altre volte ti è capitato? Beh, nelle gare di corsa in montagna, per esempio i mondiali, mi è capitato di poter fare la stessa cosa. Lì però non mi sono neanche tanto posto il problema perché avevo la testa su altro, quindi. Ma quindi tu dici in montagna hai fatto la corsa del campionato del mondo, ho visto, se non ricordo male, oltre le 3 ore la corsa è durata. Sì, 3 ore e 14. E quindi in quel caso non ti sei alimentato in nessun modo? Sì, ho preso 2 o 3 gel, ora non ricordo bene, però... Penso che sia meno un problema perché le velocità sono molto ridotte rispetto alla strada e insomma un conto è prendere un gel quando stai correndo magari a 5 al chilometro in salita e un altro è quando stai correndo vicino a 3 al chilometro in pianura. È questo problema del 3 al chilometro. Forse sarebbe stato il mio problema era quello. Ecco. Devi migliorare su quello. Penso anch'io. Grazie a Francesco Puppi. Grazie a voi. E anche per oggi è tutto, vi ricordiamo il nostro indirizzo mail per i vostri commenti e le vostre domande, personalbest@radio24.it. Buona domenica. Personal Best. Tutte le puntate sono disponibili su radio24.it.